Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera, Resto Radio Convento. E sono in compagnia di una sposo barra sposa. No. Sposa. Che si chiama? Stefania, da dove vieni Stefania? Da Vicenza, con furore abbiamo Stefania che dai capelli rosa. Sì. E con uno spazzolino fantastico per pettinare i capelli. No, sì. Sì, guarda, sono pieni di capelli questo spazzolino. Mi auguro che siano dei capelli, non c'è di altro, perché rosa così è un po' strano. E l'amico come si chiama? Mirko e Stefania, cosa mi dite? Come va la serata? È stupendo, è stata una cosa eccezionale. Ma io scommetto che tu vestito così hai fatto un gran furore stasera. Mamma mia, sì. Ma sei un'infermiera? Sì. Con lo spazzolino del bagno in mano? Ma questo è un dettaglio. Chi ha deciso questo dettaglio? Un acquisto è stato 5 euro. È un acquisto sbagliato su Amazon? Sì. No, stasera, no. Sul banco. Sì. Ah, quindi è stato aggiunto in secondo momento? Sì. Mi fai morire come ti tocchi i capelli così? Mi piace. Com'è? Ma scommetto che qui sotto non ne hai neanche uno. Scommetto che lì sono. No, ce li ha. Però gli piacciono i capelli lunghi. Puoi pensare di farli crescere? Sì, eh? Sì. Come si chiama la sposa? Ileana. Sì. Sei sicuro di volerti sposare? Sicuramente, certo. Sicuramente. 100%. Anche perché ti hai pagato? No. Ancora no, solo anticipo. Però puoi ancora cambiare idea. Sì. Ah, a posto, allora. Questa sera è per capire se. Con questo spazzolino puoi capire se ti puoi sposare o meno. Fantastica questa, è la prima cosa che vedo. Come bacchetta di magica. Ti trasforma in meglio non dire cosa. E lì fuori abbiamo gli amici che ci registrano, dovete sapere. Saluta. Esatto. Nicola. E saluta mamma. Dimmi un po', ma di ragazze belle ce n'erano fuori? Fuori, ho detto, non dentro. Fuori. No. Sempre tu. Sempre tu. Io fuori. Ma io sono dentro adesso, e non ma sono fuori. No, l'abbiamo visto. Sei bellissimo. Siamo venuti perché c'eri tu, se no. Ho capito. Era tutto studiato. Programmato? Sì. Tu ti chiami? Valentina, ragazzi. Valentina. Sono la Vale del convento. Bellissimo. Ma perché mi dai le spalle? Ti vanti così? Guarda. Ma voi dovete guardarlo perché. Si atteggia con questi capelli. Si sono allontanati tutti. No. Hai fatto scappare tutti. Guarda. Non c'è più nessuno qua fuori che ti registra. Dimmi un po'. Sono curiosa di una cosa. Amazon. La scella puzza perché è un vestito preso su Amazon. Ah, e allora c'è da fare una recensione negativa? Certo, domani. Domani la prima cosa che fai è fare la recensione negativa. Falla, eh? Io no, aspetto. No. Qual era la domanda? Mi hai fatto perdere la domanda. Adesso il tuo amico mi aiuta a trovarla. Mirko! Secondo te è meglio stare qua dentro o andare fuori? Ah, l'ha fatta a te, non a me, eh? Quindi vabbè. Se ti avvicini al microfono lo sentono tutti. Beh, allora, alla Marzullo ci sta. Dai, avvicinati così si sente. Cosa rispondi a questa domanda? A bombaccia. Si sta meglio qui? Sì, sicuramente. Mi fa piacere. Ma lui è abbiamo Mirko. Mirko. Piacere Mirko, dalla camicia rosa. Un altro Mirko. Perché lui è Mirko. Mirko Campano e Mirko Veneto. Campano perché Campano o perché ha il cognome? No, Campano. No, perché Campano, di dove? Di dove? Caserta. La piace a mozzarella. Ehi, tu piace la mozzarella e i battibaglie, buono. Una ciamarosca. Ma studate! Ragazzi, mi ha spento. Voglio. Una sola frase. io sentivo che c'era il sentore. C'era qualcosa. L'accento c'era. Possiamo far entrare io Mirko? No, è chiuso. Quando io sono dentro e faccio entrare persone, non faccio entrare più nessuno. Due. Un campano e un veneto. Che vuoi di più? Come vi siete trovati insieme, campano e veneto? Lavoriamo assieme. Ci amiamo. Cosa fate di bello nella vita? Se si può sapere. Lavoriamo nel privato e facciamo elettronica. Sì. Sì, sì, confermi? Sì, sì, sì. Non sto sbagliando? No. È vero, vero. No, io vedo che ha confermato, ho detto, può essere che sbaglia. No, vero. Va bene. Dopo lo chiamiamo. Va bene. Allora ragazzi, io vi lascio proseguire la serata, mi ha fatto piacere intervistarvi. Oh, è stato un piacere tutto mio. Tutto mio, non mio. Mio. Tutto mio. Suo con lo spazzolino, va bene? Io sono innamorato, io ho già fatto. Va bene, grazie ragazzi, buona serata. Ciao.